Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. L'antica casa a un piano color crema si trovava sul viale della circonvallazione in fondo a un anemico giardino separato dal marciapiede da una cancellata di ghisa lavorata. Il piccolo spiazzo davanti alla casa era asfaltato e d'inverno vi sorgeva un mucchio di neve in cui era infilata una pala. D'estate si trasformava in un meraviglioso ristorante all'aperto, riparato da un tendone. La casa si chiamava Casa di Gribajedov, perché si diceva che fosse appartenuta alla zia del celebre scrittore Aleksandr Sergeevich Gribajedov. Beh, lo fosse o no appartenuta, non lo sappiamo con certezza, anzi a quanto pare Gribajedov non ebbe mai una zia padrona di immobili. Comunque, la casa si chiamava così. Anzi, un vendifrottole moscovita affermava che al primo piano, nella sala rotonda, con le colonne, il celebre scrittore aveva letto dei brani di Che disgrazia l'ingegno. Le aveva letti a questa sua zia, che se ne stava sdraiata sul sofà. Del resto, chi lo sa, forse li aveva letti per davvero, ma non è questo che conta. Ciò che conta è che in quel tempo la casa apparteneva a quello stesso Massolit, a capo del quale era stato il povero Mikhail Alexandrovich Berlioz prima della sua apparizione agli Stagni Patriarchi. Seguendo l'esempio dei membri del Massolit, nessuno la chiamava la casa di Gribajedov. Tutti dicevano semplicemente Gribajedov. «Ieri ho sbrigato 2 ore al Gribajedov, e allora vado a Yalta per un mese, sei proprio in gamba, oppure vado a Berlioz, oggi riceve dalle 4 alle 5 al Gribajedov», e così via. Il Massolit si era sistemato in quella casa nel modo più confortevole che si possa immaginare. Chiunque vi entrasse, prima di tutto, senza volerlo, vedeva i comunicati dei vari circoli sportivi, nonché i ritratti di gruppo e singoli dei membri del Massolit, appesi i ritratti ai muri della scala che portava al primo piano. Ogni visitatore, che non fosse naturalmente del tutto ottuso, capiva subito come se la passavano bene i beati membri del Massolit, e un'oscura invidia cominciava subito a straziarlo, e subito rivolgeva al cielo amari rimproveri per non averlo dotato alla nascita di ingegno letterario, senza il quale, si intende, non si poteva neppure sognare di avere una tessera di membro del Massolit. Quella tessera bruna, con un largo bordo dorato, che odorava di pelle pregiata, ed era nota a tutta Mosca. Chi spenderà una parola a difesa dell'invidia? È un sentimento catalogabile fra i più abietti, ma bisogna mettersi nei panni del visitatore. Infatti, quello che egli aveva visto al piano superiore era ben lungi dall'essere tutto. L'intero pian terreno della casa della zia era adibito a ristorante. E che ristorante! A ragione era considerato il migliore di Mosca, e non solo perché occupava 2 grandi sale coi soffitti a volta sui quali erano dipinti cavalli color lilla dalle criniere a sire, non solo perché su ogni tavolino c'era una lampada coperta da uno scialle, non solo perché lì non poteva penetrare il primo venuto, ma soprattutto perché, per la qualità dei piatti, il Gribajedov batteva e strabatteva qualsiasi ristorante di Mosca, e questi piatti venivano serviti a prezzi più che convenienti, per nulla onerosi. Perciò non vi è nulla di sorprendente, ad esempio, in questa conversazione sentita un giorno dall'autore di queste veridicissime righe presso la cancellata di ghisa del Gribajedov. «Dove ceni stasera, Amroshi?» «A che domanda?» «Qui, naturalmente, caro Foca!» «Archibald Darcibaldovich mi ha sussurrato che stasera sulla lista ci sarà del pesce persico au naturel, una cosettina da maestro!» «Sai vivere tu, Amvrosci!» rispose con un sospiro Foca, trasandato e magro, con un foruncolo sul collo, a un gigante delle labbra vermiglie, dai capelli dorati, dalle guance paffute, Amvrosci, il poeta! Eh sì, cose di una volta. I vecchi moscoviti si ricordano del celebre Gribajedov, pesce persico lesso. Robetta da niente, caro Amroshi. Pensi invece allo sterleto in un pentolino argenteo, allo sterleto a pezzetti alternati con code di gamberi e caviale fresco, e le uova in cocotto con un purè di funghi in tazza, eh? E i filettini di tordo, non le piacevano, coi tartufi, e le quaglie alla genovese, eh? 9,50, e il jazz, e il servizio cortese, e a luglio, quando tutta la famiglia è in campagna, mentre lei è trattenuto in città da affari letterari improrogabili, sulla veranda all'ombra della vita rampicante, il piatto di soupe printanière e in una dorata chiazza sulla lindissima tovaglia, eh? Ricorda Ambrosci? Ma che c'è bisogno di chiederlo? Vedo dalle sue labbra che ricorda, e lei parla di marene e di pesce persico, eh? E le beccacce, i beccaccini, i tordi, le starne, a seconda della stagione, le pernici, le accegge, eh? L'acqua minerale che pizzica nella gola, ma fermiamoci qui, eh? Ti stai distraendo, lettore. Beh, seguimi. Alle 10:30 della sera in cui Berlioz era perito ai Petrarchi, al piano superiore del Gribajedov era illuminata una sola stanza e in essa languivano 12 letterati giunti lì per la riunione e in attesa di Mikhail Alexandrovich. Seduti sulle sedie, sui tavoli e persino su due davanzali nella direzione del Massolit, soffrivano molto per l'afa. Non un soffio d'aria fresca entrava dalle finestre spalancate. Mosca restituiva la calura accumulata nell'asfalto durante il giorno ed era chiaro che la notte non avrebbe portato sollievo. Un odore di cipolla saliva dalla cantina dove si trovava la cucina del ristorante e tutti avevano voglia di bere ed erano nervosi e irritati. Il narratore Beshkudnikov, un uomo quieto, ben vestito, con gli occhi attenti e insieme sfuggenti, tirò fuori l'orologio. La lancetta avanzava verso le 11. Beshkudnikov batté il dito sul quadrante, lo mostrò al suo vicino, il poeta Drubratsky, che stava seduto lì su un tavolo, dondolando per la noia le gambe calzate di un paio di scarpe gialle dalla suola di gomma. «Però», borbottò Drubratsky. «Ah, l'amico, sarà rimasto in villeggiatura», commentò con voce densa Nastasia, orfana di una famiglia di mercanti moscoviti che, diventata scrittrice, componeva racconti di battaglie navali, firmandosi con lo pseudonimo Capitano George. «Scusate», disse arditamente Zagribov, autore di sketch di successo, «anch'io me ne starei con piacere sul balcone a prendere il tè invece di cuocere qui dentro. Ah, la riunione, se ben ricordo, era fissata per le 10. «Si sta bene adesso in villeggiatura», disse malignamente il capitano George, sapendo che Pereleghino, luogo di villeggiatura dei letterati, era un punto debole per tutti. «A quest'ora staranno già cantando gli usignoli. Non so, io lavoro sempre meglio fuori città, soprattutto in primavera». «Ah, questo adesso non c'entra», tuonò Avapkov. «Il fatto è che sono 11:30!» Cominciarono a rumoreggiare e stava per maturare una specie di sedizione. Si misero a telefonare all'odiata Pereleghino. Ebbero la comunicazione con un altro villino, con quello di Lavrovich. E appresero che Lavrovich era andato al fiume e questo guastò in modo definitivo l'umore generale. Telefonarono a Casaccio, alla commissione per le belle lettere, interno 930, e naturalmente non vi trovarono nessuno. «Poteva anche telefonare!» gridarono Danishkin, Glugariev e Kvant. «Oimè!» gridavano invano. «Non poteva telefonare Mikhail Alexandrovich, lontano, molto lontano dal Gribajedov, in una sala enorme illuminata da lampadine di 1000 candele, giaceva su 3 tavoli zincati ciò che ancora poco prima era stato Mikhail Alexandrovich. Sul primo tavolo un corpo nudo, col sangue raggrumato, un braccio fracassato, la gabbia toracica schiacciata. Sul secondo, la testa, con gli incisivi spezzati e gli occhi torbidi aperti, che non reagivano più alla luce violenta. E sul terzo, un mucchio di stracci induriti. Attorno al cadavere decapitato si trovavano il professore di medicina legale, l'anatomopatologo e il suo preparatore, rappresentanti delle autorità inquirenti e il letterato Sgelbidin, sostituto di Mikhail Alexandrovich Berlioz Almassolit, chiamato telefonicamente dal capezzale della moglie ammalata. Una macchina era andata a prelevare Sgelbidin e per prima cosa, insieme alla polizia, lo portò verso mezzanotte nell'alloggio dell'ucciso, dove furono messi i sigilli su tutti i documenti, e solo dopo raggiunsero l'obitorio. Adesso, raccolti attorno ai resti del defunto, stavano conferendo sul modo migliore di procedere. Cucire la testa tagliata al corpo, oppure esporre il corpo nel salone del Gribajedov, coprendo semplicemente fino al mento la vittima di un drappo nero? Sì, Mikhail Alexandrovich non poteva proprio telefonare. E Danishkin, Glukariev e Kvant e Beskudnikov gridavano e si indignavano invano. A mezzanotte in punto, tutti e 12 i letterati lasciarono il piano superiore e scesero al ristorante. Anche qui imprecarono sottovoce contro Mikhail Alexandrovich. I tavolini sulla veranda, naturalmente, erano già occupati ed essi furono costretti a cenare nelle belle ma afose sale interne. A mezzanotte in punto, nella prima sala, qualcosa si schiantò tintinnò, si riversò, tamburellò, e subito una sottile voce maschile urlò con accanimento accompagnata dalla musica «Alleluia!» Aveva attaccato la celebre orchestra jazz del Gribaidov. I volti coperti di sudore sembravano schiarirsi, i cavalli dipinti sul soffitto parvero animarsi, si sarebbe detto che le lampadine erano diventate più luminose e di colpo, come scatenati, i clienti dalle sale cominciarono a ballare e poi si misero a ballare anche sulla veranda. Ballò Glukariev con la poetessa Tamara, ballò Kvant, ballò il romanziere Zhukov con un'attrice cinematografica vestita di giallo, ballavano Dragunsky, il piccolo Denishkin con la gigantesca capitano George, ballava la bellissima architetta Semyashka Gall, stretta da uno sconosciuto coi pantaloni di tela bianca, ballavano i membri e gli ospiti, i moscoviti e i forestieri. Un regista con una psoriasi violacea su tutta la guancia, ballavano i più noti rappresentanti della sezione poetica del Massolit, ballavano dei giovincelli di professione ignota, coi capelli tagliati a spazzola e le spalle della giacca imbottite, ballava un tipo assai anziano con la barba in cui si era impigliato un pezzo verde di cipollina, con lui ballava una gracile fanciulla divorata dall'anemia con un vestitino di seta arancione spiegazzato. Grondando di sudore, i camerieri portavano sopra le teste boccali di birra appannati e urlavano arrochiti e pieni di odio «Scusi, signore!» E in un punto una voce ordinava al megafono «Un Karski, due Zubrich, Kliasic, Kosbodraschi!» La voce sottile non cantava più, ma ululava «Alleluia!» Il fracasso dei piatti dorati del jazz copriva a volte quello delle stoviglie che le lavapiatti facevano scivolare in cucina lungo un piano inclinato. Insomma, un inferno. E a mezzanotte in quell'inferno ci fu una visione. Uscì sulla veranda un bell'uomo in frac, gli occhi neri, la barba aguzza come un pugnale, e con uno sguardo maestoso guardò i suoi possedimenti. Dicevano i mistici che vi era stato un tempo in cui il bell'uomo non portava il frac, ma era fasciato da un largo cinturone di cuoio da cui sporgevano le impugnature delle pistole, e i suoi capelli corvini erano stretti da un fazzoletto di seta rossa. E ai suoi ordini navigava nel mar dei Caraibi un brigantino battente bandiera nera con un teschio. Ma no, no. Mentono i mistici con le loro lusinghe. Non esiste nessun mar dei Caraibi. Non vi navigano filibustieri temerari. Non li insegue una corvetta. Sui flutti non si stende il fumo dei cannoni. Non c'è niente, non c'è mai stato niente. C'è un tiglio anemico, c'è un cancello di ghisa e dietro un viale. Il ghiaccio si scioglie nel secchiello, al tavolino accanto si vedono occhi bovini iniettati di sangue e ti prende la paura. La paura. Nomi, nomi, io voglio del veleno, del veleno, del veleno. A un tratto da un tavolo si levò la parola Berlioz. Di colpo il jazz si sfece e si tacque come se qualcuno l'avesse colpito con un pugno. Cosa? Berlioz! E si misero a dar sbalzi e si misero a gettar gridi. Thank you. Un'ondata di dolore si slanciò in alto alla terribile notizia della fine di Mikhail Alexandrovich. Qualcuno si agitava, gridava che bisognava subito all'istante, lì per lì, scrivere un telegramma collettivo e spedirlo immediatamente. Ma quale telegramma, chiediamo noi? E a chi? E perché spedirlo? Infatti, a chi spedirlo? A che serve un telegramma? Quale che esso sia? All'uomo la cui nuca schiacciata è stretta ora dalle mani di gomma del preparatore e il cui collo è cucito dagli aghi curvi del professore? È morto e non gli serve alcun telegramma. Tutto è finito. Non sovraccarichiamo il telegrafo. Sì, è morto. Morto. Ma noi siamo vivi. Sì, si levò in alto un'ondata di dolore, rimase per un po' e poi cominciò a decrescere. Qualcuno era già tornato al suo tavolino e, prima di nascosto, poi apertamente, bevve un po' di vodka e mandò giù qualcosa. Infatti non era proprio il caso di lasciare nel piatto le cotolette di volaio. Ah, di che aiuto possiamo essere a Mikhail Alexandrovich? Perché rimanere digiuni? Siamo vivi, noi. Naturalmente il pianoforte fu chiuso a chiave, i suonatori del jazz se ne andarono, alcuni giornalisti tornarono nelle loro redazioni a scrivere la necrologia. Il ristorante, intanto, riprese la sua solita vita notturna e l'avrebbe vissuta fino alle 4 del mattino, ora di chiusura, se non fosse successo qualcosa di assolutamente straordinario che colpì gli ospiti del ristorante molto più che la notizia della morte di Berlioz. I primi ad agitarsi furono i vetturini in fila davanti al portone del Grebajedov. Si udì uno di loro che, sollevandosi a cassetta, esclamò: «Ah, guarda che roba!» Poi, presso la cancellata di ghisa, si accese una fiammella venuta da chissà dove e si diresse verso la veranda. Quelli che sedevano ai tavolini cominciarono ad alzarsi per guardare meglio e videro che con la fiammella verso il ristorante avanzava un bianco fantasma. Quando raggiunse l'inferriata della veranda, tutti ai tavolini restarono di ghiaccio, coi pezzi di sterleto infilzati nelle forchette, e sbarrarono gli occhi. Il portiere, che in quel momento era uscito dal guardaroba per farsi una fumatina, spense la sigaretta col tacco e si avviò verso il fantasma con l'evidente intenzione di sbarrargli la strada, ma non lo fece e si fermò con un sorriso stupido. Il fantasma attraversò l'apertura dell'inferriata e arrivò senza ostacoli sulla veranda. Solo allora i presenti videro che non si trattava affatto di un fantasma, ma di Ivan Nikolaevich Viezhdomny, il noto poeta. Era scalzo, aveva un paio di mutandone bianchi a righe e indossava un camiciotto bianco stracciato, sul cui petto, con uno spillo da balia, era attaccato un'icona di carta raffigurante un santo sconosciuto. In mano Ivan Nikolaevich reggeva un cero nuziale acceso. La sua guancia destra presentava una escoriazione di fresca data. Era addirittura impossibile valutare la profondità del silenzio che si fece sulla veranda. Si vedeva un cameriere che lasciava scorrere la birra dal boccale inclinato. Il poeta alzò il cero sopra la testa e disse forte: «Salve, amici!» Dopodiché guardò sotto il tavolo più vicino ed esclamò con afflizione: «No, non è qui!» Si udirono due voci. Una bassa disse spietata: «È spacciato! Delirium tremens!» L'altra femminile, spaventata, pronunciò le parole: «Come mai la polizia l'ha lasciata andare in giro in quello stato?» Questo Ivan Nikolaevich lo udì e rispose: «Hanno tentato due volte di fermarmi. Allo Scaterni e qui, alla Bronnaia, ma ho scavalcato uno steccato e, vedete, mi sono graffiato la guancia». Poi Ivan Nikolaevich alzò il cero e gridò: «Fratelli in letteratura!» La sua voce da prima fioca si rafforzò e divenne più calda. «Ascoltatemi tutti! È comparso! Acchiappatelo subito, se no combinerà guai inenarrabili!» «Come? Cosa? Chi ha detto? Chi è comparso?» Piovvero voci da tutte le parti. «Il consulente!» rispose Ivan. «Il consulente che ha ucciso Mischa Berlioz ai patriarchie!» Dalla sala interna la gente si riversò sulla veranda e si strinse intorno al cero di Ivan. Scusi, sia più preciso, risuonò all'orecchio di Ivan Nikolaevich una voce sommessa e cortese. Come sarebbe a dire ha ucciso? Chi ha ucciso? Il consulente straniero, professore, spia, rispose Ivan, voltandosi. Ma come si chiama? Gli chiesero piano all'orecchio. Come si chiama? Gridò afflitto Ivan. Magari lo sapessi, non ho fatto in tempo a leggere il nome sul biglietto da visita. Mi ricordo soltanto la prima lettera, un V doppio. Il nome cominciava con un V doppio. Che nome può essere col V doppio? Chiese Ivan a se stesso, stringendosi la fronte tra le mani, e a un tratto cominciò a borbottare Wagner, Winter. I capelli sulla sua testa cominciarono a muoversi avanti e indietro dallo sforzo. «Wolf!» esclamò impietosita una donna. Ivan si arrabbiò. «Scema!» gridò, cercando la donna con lo sguardo. «Che c'entra Wolf?» «Wolf non ha nessuna colpa!» «No, così non ci arriverò mai. Beh, signori, ecco che cosa vi dico. Telefonate subito alla polizia perché mandino 5 moto con mitra per prendere il professore. E non dimenticate di dire che con lui ce ne sono altri 2. Uno lungo, a quadretti, con gli occhiali a molla incrinati, e un gatto nero, grasso. Io intanto faccio una perquisizione al Ribaiedov. Sento che è qui». Ivan fu preso dall'inquietudine e si fece largo a spintoni tra quelli che lo circondavano. Cominciò ad agitare il cero, facendosi gocciolare la cera addosso, e guardò tutti i tavolini. Si sentì dire: «Un dottore?» E un'affabile faccia carnosa, rasata e pasciuta, con gli occhiali cerchiati di corno, apparve davanti a Ivan. «Compagno, vi sdomni», disse la faccia con una voce da comizio. «Si calmi. Lei è sconvolto dalla morte di colui che noi tutti amavamo tanto, Mikhail Alexandrovich. No, semplicemente Misha Berlioz. Noi tutti lo capiamo benissimo, lei ha bisogno di riposo. Adesso i compagni la metteranno a letto e lei prenderà sonno». «Tu!» lo interruppe Ivan, digrignando i denti. «Lo capisci che bisogna prendere il professore e mi vieni a scocciare con le tue scemenze, cretino! Compagno Biesnomni! La prego!» rispose la faccia, arrossendo, arretrando e rimpiangendo di essersi cacciata in quel pasticcio. «No! Tu non la passi mica liscia, sai!» disse con odio intenso Ivan Nikolaevich. Uno spasimo distorse i suoi lineamenti, si passò rapidamente il cero dalla mano destra in quella sinistra, prese lo slancio e mollò una sventola sull'orecchio alla faccia compassionevole. Allora ebbero l'idea di gettarsi addosso a Ivan, e lo fecero. Il cero si spense, gli occhiali caduti dal naso furono immediatamente calpestati. Ivan lanciò un terribile urlo di guerra che si udì, provocando la curiosità generale fin sul viale, e cominciò a difendersi. Tintinnò il vasellame e, cadendo dai tavoli, cominciarono a gridare le donne. Thank you. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Regia di Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.